Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Il Papa dice che Internet è un dono di Dio perché può favorire incontro e solidarietà. Non abbiate timore di farvi cittadini digitali, aggiunge il pontefice. Grillo torna ad attaccare Renzi durante un incontro con la stampa estera. Si fa dettare la linea dal Cavaliere, dice. Legge elettorale fatta per tagliarci fuori, aggiunge. Intanto è approdata in Commissione Affari Costituzionali, ne parleremo col Presidente. Silvio Berlusconi e i suoi avvocati indagati dalla Procura di Milano. L'ipotesi è corruzione di testimoni nella vicenda Ruby. Sotto inchiesta complessivamente 45 persone, ci sono anche le cosiddette olgettine. Ucraina, tregua fino alle 19, ora italiana tra manifestanti e polizia in attesa degli incontri di oggi. 157 manifestanti feriti da domenica. La Russia fa sapere che non interverrà. Nel 2013 la Guardia di Finanza ha scoperto 8.000 evasori totali, nascosti 16 miliardi di redditi. Irregolare, uno scontrino su tre. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Oltre a quello che avete sentito nei nostri titoli, parleremo anche di altro. Torneremo a Modena per capire com'è la situazione dopo l'alluvione e ci rivolgeremo ad un'associazione imprenditoriale. Poi ci sarà ancora una volta il nostro viaggio verso domani, che è stato definito il Black Friday della finanza locale, con la scadenza definitiva di Mini IMU e Tares, e ospiteremo tra l'altro un sindaco. Prima di iniziare vi do una notizia appena battuta dalle agenzie. È partita l'operazione sanatoria per le cartelle, che riguarderà, ed è un annuncio di Equitalia, che riguarderà non solo i tributi erariali ma anche tributi come il bollo dell'auto e le multe per la violazione del codice della strada. Sono esclusi invece i debiti INPS e INAIL. Scadenza fissata per il 28 febbraio. Noi però in apertura vogliamo parlare della giornata delle comunicazioni sociali della Chiesa. C'è stato il messaggio del Papa, dice tra le altre cose che nel mondo c'è una scandalosa distanza tra il lusso dei più ricchi e la miseria dei più poveri, ma si parla anche di Internet. Ascoltiamo. Tra una chiesa accidentata che esce per strada ed una ammalata di autoreferenzialità, non ho dubbi nel preferire la prima. Lo ribadisce con forza il Papa nel messaggio per la giornata delle comunicazioni sociali, invitando ancora una volta a testimoniare una chiesa che sia la casa di tutti, che apra le porte anche nell'ambiente digitale. Perché la gente entri in qualunque condizione di vita essa si trovi e perché il Vangelo possa varcare le soglie del Tempio ed uscire incontro a tutti. Internet dunque diventa una grossa opportunità, un dono di Dio, scrive Francesco, proprio perché può offrire maggiori possibilità di incontro e solidarietà tra tutti. Quanto alla testimonianza cristiana, chiarisce il Papa, non si fa con il bombardamento di messaggi religiosi, ma con la volontà di donare se stessi. Dialogare non significa certo rinunciare alle proprie idee e tradizioni, ma alla pretesa che siano uniche ed assolute. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E veniamo alla politica, politica dominata ancora dalla discussione sulla legge elettorale e dominata in particolare nella giornata di oggi dalla conferenza stampa di Beppe Grillo alla stampa estera. Ci aggiorna Alessandra Schepisi. Buongiorno Alessandra. Sì, buongiorno. Attacca la nuova legge elettorale il capo dello Stato, Renzi e tutto il PD. Una conferenza stampa a fiume, quella del comico genovese alla sala stampa estera, preclusa ai giornalisti italiani che si sono ammassati fuori cercando di ricostruire quanto accadeva dentro attraverso la diretta trasmessa dal blog, che però ha avuto notevoli problemi tecnici. Il tema doveva essere l'Europa, il fiscal compact, il fondo salva stati. Di fatto si è parlato molto di faccende italiane. Grillo ha attaccato il segretario del PD, definendolo lebetino che fa accordi con il condannato Berlusconi, criticando l'Italicum, la bozza di riforma della legge elettorale fatta apposta, ha detto, per tagliare fuori il Movimento 5 Stelle. Ma sentiamo questo passaggio. Ha fatto un patto con un condannato, di nascosto, messo lì dentro, in una sede privata. Il Berlusconi che esce scortato dalla polizia con una condanna passata in giudicato, adesso deve o fare gli arresti domiciliari o lavori. Ma dove è un paese così? Scortato dalla polizia? Ma stiamo scherzando, non ha nessun valore di questa legge elettorale che stanno facendo questi due, è assolutamente per fermare noi, siamo la variante impazzita che non riescono a fermare. ci vedono come un'anomalia, ha continuato Grillo, riproponendo la tesi del colpettino di Stato, quello che avrebbe a suo dire ordito Napolitano, che si è riunito con due persone una sera e fatto le larghe intese per bloccare il movimento. Poi sui temi economici ha riproposto l'idea di un reddito per tutti, dalla nascita alla morte, da pagare con le pensioni e con una grande riforma fiscale. Infine, sull'Europa non siamo né razzisti né anti-europeisti, correremo da soli, comunque vinceremo le europee, lo metteremo per iscritto. E da Roma è tutto. Grazie Alessandra, così Grillo. In realtà noi a Roma rimaniamo, ci spostiamo invece adesso a Montecitorio, perché appunto si discute ancora di legge elettorale. Ci torneremo anche più avanti, ospiteremo il presidente della Commissione Affari Costituzionali, dove la legge è appena approdata, la proposta Renzi Forza Italia. Intanto ci sono varie reazioni, compresa quella della Lega. Elisabetta Fiorito. Sì, la legge elettorale andrà in aula il 29 gennaio, si voterà tra il 30 e il 31, il calendario dell'Italicum è quindi stabilito, Simone slitta solo di due giorni a chiedere la posticipazione, è stata Sel che nel weekend è impegnata nel congresso di partito dove sarà anche discusso il testo della riforma. Tra le novità, Matteo Renzi incassa il sì del nuovo centrodestra di Angelino Alfano, la Lega invece annuncia battaglia per le soglie di sbarramento che di fatto la collocherebbero fuori dal Parlamento. Sentiamo a questo proposito Matteo Salvini. Se ritengono di mettere degli sbarramenti tali per cui rimangono in Italia solo due o tre partiti, secondo me è una schifezza, secondo me è una legge truffa di stampo fascista, però facciano loro. Per Stefania Giannini, Scelta Civica voterà il testo, ma il premio di maggioranza deve essere più alto del 35% per coalizione. Riguardo poi alle preferenze, interviene nel PD Pippo Civati, che dichiara di preferire i collegi uninominali, e a Grillo risponde il capogruppo Roberto Speranza del PD: sono accuse infondate e deliranti quelle del Movimento 5 Stelle. A te Simone. Grazie Elisabetta Fiorito. E le cronache parlamentari si compongono anche del decreto su IMU e Bankitalia, sul quale il governo oggi ha messo la fiducia. Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. E il voto di fiducia ci sarà domani a partire dalle 11.45. Gli ordini del giorno e il voto finale sul provvedimento, che scade, lo ricordiamo, a metà della prossima settimana, si terranno invece tra il 28 e il 29 di gennaio. Il deputato Massimo Corsaro di Fratelli d'Italia è stato espulso dall'aula dopo aver urlato più volte il suo dissenso per la decisione di Palazzo Chigi. La fiducia è stata chiesta dal ministro Franceschini sul testo uscito dal Senato. Quanto ai contenuti, il provvedimento cancella anche la seconda rata IMU Prima Casa 2013, in compenso vengono rivisti al rialzo gli acconti per banche ed assicurazioni, sale al 128,5% l'acconto IRES per il periodo d'imposta relativo allo scorso anno, acconti IRES e IRAP più salati anche per le imprese, per il 2013 arrivano a 102,5%, mentre per l'anno 2014 si torna al 101,5%. Il testo dà il via libera poi alla rivalutazione delle quote della Banca d'Italia, il tetto passa dal 5% al 3%, l'italianità è salvaguardata dall'obbligo di mantenere per i soci la sede legale in Italia. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo Miglietta. Noi adesso rimaniamo a cavallo tra politica e giustizia per parlare della nuova indagine partita dalla Procura di Milano. Oggi l'avete sentito nei titoli, il cosiddetto Ruby Terra. Ci sono Silvio Berlusconi e i suoi avvocati che sono indagati insieme a un sacco di altre persone. Raffaella Calandra, eccoci. Sì, buongiorno. Allora, c'è sicuramente Silvio Berlusconi e ci sono i suoi avvocati Nicolò Ghedini e Piero Longo. C'è la stessa Ruby e ci sono molte altre oggettine. E ci sono poi gran parte degli ospiti delle serate di Arcore, da Carlo Rossella all'onorevole Valentino Valentini all'onorevole Rossi. In totale sono 45, così come era stato già annunciato, previsto, anche già alla vigilia, gli iscritti di questo nuovo filone, il terzo del caso Ruby, l'indagine cioè sulla corruzione presunta dei testimoni, che era stata già ipotizzata nelle sentenze sia dalla Corte che aveva condannato a 7 anni l'ex premier, sia da quella che poi aveva giudicato Fede, Mora e Minetti. Erano stati appunto quei tribunali a rinviare gli atti alla procura, ed è per questo che oggi il procuratore capo Bruti Liberati non ha potuto che definire un atto dovuto l'iscrizione di queste 45 5 persone nel registro degli indagati, spiegando che dell'inchiesta non si occuperà però il procuratore aggiunto Ilda Boccassini, perché occupata in altre vicende, ha fatto sapere, ma saranno Pietro Forno e Luca Gaglio. In sostanza, ora i magistrati dovranno indagare e verificare se hanno mentito in aula tutti questi 45 testimoni quando hanno negato sia l'esistenza di quel giro di prostituzione ad Arcore, come hanno fatto ad esempio in aula alcune olgettine che dalla Cavaliere dall'inizio di questa vicenda hanno ricevuto fino adesso circa 2.500 euro al mese, ma come hanno fatto anche quei poliziotti come Giorgia Iafrate, che la notte del fermo di Rubi alla questura di Milano ricevettero la telefonata dell'allora premier. In aula ha sempre negato che di aver mai subito alcuna pressione per concussione. Questa è quella gravità di inquinamento probatorio di cui i giudici avevano parlato nelle sentenze e su cui ora i magistrati dovranno indagare. Sicuramente quest'altro filone con delle accuse molto gravi pesa, diciamo, su tutta la vicenda giudiziaria di Silvio Berlusconi, che ad aprile dovrà avrà la notizia per quanto riguarda l'affido ai servizi sociali, ma anche per le future sue sorti, perché nel caso in cui dovesse avere altre condanne, queste peserebbero anche per i benefici avuti nella vicenda Mediaset. Allora, grazie Raffaella. Nel frattempo ci sono delle dichiarazioni di Silvio Berlusconi affidate ad un messaggio che forse però non a caso arriva in una giornata come quella di oggi. Dice: io sono qui e resto qui, sentendo su di me chiara e forte la responsabilità che mi viene dalla fiducia dei cittadini, resto in campo, e aggiunge, parlando ai magistrati, hanno il coraggio di chiamarla giustizia, con tono ironico. A proposito di inchieste, ce n'è una nuova della procura di Trani, perché sono indagati a Trani per concorso in truffa il presidente del consiglio d'amministrazione di BNL Abete, il vicepresidente Sergio Pietro Erede e l'amministratore delegato e direttore generale Fabio Gallia. L'accusa è concorso in truffa per aver predeterminato le condizioni per la negoziazione di contratti derivati ritenuti dalla procura di Trani truffaldini. Ai 3 e ad altre 13 persone è stato notificato l'atto di fine indagine. Adesso l'evasione fiscale sfiora i 52 miliardi, sono oltre 8.000 gli evasori totali scoperti, che da soli hanno sottratto al fisco redditi per oltre 16 miliardi. Uno scontrino su tre rivela inoltre il bilancio dell'attività compiuta nel 2013 dalla Guardia di Finanza è irregolare e l'IVA evasa ammonta quasi 5 miliardi. Il colonnello Gianluca Campana, intervistato da Maria Luisa Pezzali. Questo è frutto degli interventi nei confronti della grande evasione, nei confronti di soggetti che utilizzano le maglie dell'ordinamento, spesso anche le consulenze di professionisti, per evadere il fisco, ricorrendo a fenomeni di evasione internazionale, spostando all'estero fittiziamente la residenza, oppure continuando a svolgere attività economica e professionale senza presentare le dichiarazioni. Colpisce il dato sugli evasori totali, più di 8.000, chi sono? La figura degli evasori totali, cioè i soggetti che svolgono attività commerciale e professionale e che non presentano la dichiarazione, interessa un po' tutte le categorie economiche e taglia in maniera trasversale un po' tutta la penisola. Non ci sono aree o settori in cui questo fenomeno si possa dire essere più presente di tutti gli altri. Questo è il quadro della Guardia di Finanza. Noi adesso ci spostiamo all'estero. Sono tante le cronache di oggi, arrivano in particolare da Davos, dove si sta svolgendo il World Economic Forum, ma anche naturalmente dall'Ucraina. Antonella Scott del Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno. Iniziamo proprio appunto dall'Ucraina e poi sentiremo il servizio dell'inviato del Sole 24 Ore dal World Economic Forum, dove ci sono tanti altri temi, tra cui l'Iran. E però, innanzitutto, la giornata di oggi ci consegna una tregua fino alle 19, Antonella, no? Sì, è così. Questa è davvero una giornata decisiva. Proprio per questo, proprio perché ormai il paese rischia davvero di precipitare nel baratro della guerra civile, il leader dell'opposizione ha fatto un ultimo tentativo, il più noto insomma tra i leader dell'opposizione, il pugile Vitali Klitschko, ha chiesto ai suoi, ai dimostranti, di dare ancora una possibilità al negoziato, quindi di aspettare fino alle 8 di questa sera, alle 19 in Italia, per vedere se il presidente Yanukovych alla fine cede in qualche modo, è disposto a trovare un punto di incontro. Ricordiamo che le richieste dell'opposizione sono di indire elezioni anticipate e soprattutto di abolire, di eliminare le leggi contro le che in qualche modo hanno criminalizzato la protesta, cioè che rendono più semplice l'incriminazione dei dimostranti. Senti Antonella, tutto questo nasce dall'accordo che Yanukovych ha deciso di stilare con la Russia, rifiutando di fatto invece un accordo con l'Unione Europea che prevede tra l'altro l'acquisto da parte di russi di 15 miliardi di titoli di Stato ucraini e di una riduzione di un terzo circa del prezzo del gas. Nasce la protesta da tutto questo. C'è chiaramente un'influenza russa forte sulla presidenza ucraina. C'è qualche timore da parte della Russia che la vicenda abbia un impatto d'immagine negativo sulle Olimpiadi di Sochi che si aprono, le Olimpiadi invernali che si aprono tra due settimane? Probabilmente, certo, sì, c'è, perché come abbiamo visto bene anche noi, Putin ha fatto di tutto per cercare di rispolverare un po' la propria immagine e quindi centrare il suo obiettivo, che è quello di far vedere al mondo quanti passi avanti ha fatto la Russia, e quindi aprire con la cerimonia di inaugurazione il 7 febbraio prossimo al meglio. Certo, questo non può farlo se accanto a tutte le ombre che già sappiamo dalle minacce del terrorismo, le polemiche sulle leggi contro la discriminazione degli omosessuali, ecco, se a tutto questo si aggiunge dall'altra parte del mare, ricordiamo Sochi sul Mar Nero, nella parte orientale, l'Ucraina è nella parte al di sopra, a nord del Mar Nero, ecco, se ci sarà un paese che scivola nella guerra civile, certo questo non può essere un'ulteriore ombra sulle Olimpiadi, quindi si può, forse possiamo sperare che, visto che Putin ha ottenuto quello che voleva da Yanukovych, ha una forte presa su di lui, forse potrebbe intervenire per cercare di spingerlo almeno a trovare un compromesso, al negoziato con l'opposizione. Grazie Antonella Scott per questi aggiornamenti e per questo quadro. Noi ci fermiamo per la viabilità, ritorniamo tra un attimo, parleremo tra le altre cose di quello che succede a Modena dopo l'alluvione e torneremo a parlare di legge elettorale. Grillo torna ad attaccare Renzi durante un incontro con la stampa estera, si fa dettare la linea dal Cavaliere, dice la legge elettorale è stata fatta per tagliarci fuori, intanto è approdata in Commissione Affari Costituzionali. Silvio Berlusconi e i suoi avvocati indagati dalla Procura di Milano, l'ipotesi di corruzione di testimoni nella vicenda Ruby, sotto inchiesta complessivamente 45 persone, ci sono anche le cosiddette olgettine. Ucraina, tregua fino alle 19 ore italiana tra manifestanti e polizia, in attesa degli incontri di oggi, 157 i manifestanti feriti da domenica, la Russia fa sapere che non interverrà. Il Papa dice che internet è un dono di Dio perché può favorire incontro e solidarietà, non abbiate timore di farvi cittadini digitali, aggiunge il pontefice. Nel 2013 la Guardia di Finanza ha scoperto 8.000 evasori totali, nascosti 16 miliardi di redditi irregolari, uno scontrino su tre. Francesco Paolo Sisto, Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei, gli ascoltatori, eccomi qui. È un testo blindato? Ma no, guardi, blindato non c'è mai niente in Parlamento. È un testo base che racchiude un progetto di massima accurato, che tiene conto ovviamente dei fondamentali dell'accordo fra Berlusconi e Renzi, ne richiama i principi in modo, direi, assolutamente fedele, ma è ovvio che un testo base è sempre soggetto a tutti gli aggiustamenti che Commissione e Parlamento vorranno apportare. Io sono stato attento. Comprese le preferenze? Guardi, le preferenze, il discorso è molto semplice. Ciascuno, in una buona transazione, come insegnano i maestri, tutti rimangono un po' scontenti. Credo che Forza Italia abbia ingoiato il doppio turno, ci sono state altre scelte, i partiti piccoli ovviamente hanno delle percentuali che rende la loro presenza, diciamo così, particolarmente consistente, quindi non sarà facilissimo entrare in Parlamento. C'è questo tema delle preferenze che la Corte Costituzionale ha espressamente sancito essere compatibile con la Costituzione. Piccole liste in piccoli collegi, quindi credo che tutto è un accordo unico, non c'è un pezzo di uno e un pezzo dell'altro, e se qualcuno cerca di sfilarsi adesso mi sembra che non sia in linea con la serietà che Renzi e Berlusconi hanno mostrato. Senta Sisto, secondo lei è una legge contro il Movimento 5 Stelle, come dice Grillo oggi? Ma nel modo più assoluto no, io non credo che sia una legge contro. Innanzitutto è una legge che si farà, e questo è già un fatto. Cioè siamo finalmente di fronte ad una politica consapevole che cerca di ottenere un risultato per il tramite di questa scelta che io reputo metodologicamente straordinaria di un incontro presso la sede del Partito Democratico fra Renzi e Berlusconi. Ma detto questo non è assolutamente una legge contro i 5 Stelle, anzi io credo che 5 Stelle, e nella mia commissione c'è un'ottima collaborazione tra i parlamentari di 5 Stelle e gli altri, si raggiungerà in un dibattito che mi auguro possa essere come sempre civile, anche se mi rendo conto il tema è assai delicato perché coinvolge il futuro di tanti piccoli e grandi partiti, e io sono convinto che il risultato sarà poi quello di un buon provvedimento, una buona legge. A me sembra che da loro di base ci sia comunque una chiusura. Abbiamo ospitato Toninelli l'altro giorno, suo collega appunto in Commissione Affari Costituzionali, il quale ci dice: guardate, i cinque punti che abbiamo visto, pur non avendo ancora in mano il testo, sono tutti incostituzionali. Ma guardi, il Movimento 5 Stelle ha diritto, come qualsiasi partito, ad esprimere le sue opinioni anche in maniera, come posso dire, qualche volta un po' folcloristica e qualche volta anche un po' eccessivamente aggressiva, però il diritto di dire la propria non significa avere ragione. Io posso dirle soltanto che una cosa è sicura, che questo testo base, questa filosofia della legge elettorale è nell'ambito del perimetro della sentenza della Corte Costituzionale. Su questo credo che non ci possano essere dubbi, e d'altronde illustri costituzionalisti molto più capaci di chi le parla, e credo anche di qualche componente ed esponente di 5 Stelle, hanno sancito questo principio in maniera assolutamente semplice e chiara. Quando si chiude? Ma guardi, oggi la Capigruppo ha fissato l'aula per il 29 pomeriggio e noi inizieremo a discutere gli emendamenti la prossima settimana. Io farò il timoniere di questa barca che diventa sempre più capace di raggiungere il porto, e cercherò di fare in modo che il provvedimento il 29 sia nato. Dico cercherò perché sono un po' scaramantico, a me le espressioni perentorie non piacciono mai, preferisco quelle tendenziali che poi diventano risultati. Ah, quindi far sì che entro il 29 sia in aula. Un'ultima domanda per lei, Sisto, che insomma ne capisce più di noi. C'è la possibilità tecnica, dal punto di vista tecnico, che una volta approvata la legge elettorale si vada al voto a maggio, oppure il fatto che si devono creare i collegi, insomma ci sono tutta una serie di operazioni tecniche che seguono l'approvazione di una legge elettorale, impedisce questa possibilità? Guardi, io credo che anche nella politica vige un principio: ciascuno deve fare il suo. Il compito nostro, mio in particolare, è quello di dare al Parlamento la possibilità che una legge elettorale finalmente ci sia e degna di questo Paese. Poi le conseguenze politiche di un gesto necessario dopo la sentenza della Corte Costituzionale io le affido volentieri ad altri, ad altre scelte. Ciò che conta è che questo piccolo, grande tassello di questa legge così importante sia ascrivibile al buon adempimento di tanti parlamentari, anche quelli che non sono d'accordo, perché se civilmente svolgono il ruolo di dissenzienti il risultato è comunque democratico. Grazie a Francesco Paolo Sisto, Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera, per essere stato con noi. Buona giornata. E noi torniamo ad accendere i riflettori su Modena. Ve l'abbiamo raccontata ieri qual è la situazione, almeno in parte, insieme al Presidente della provincia. Parliamo di 2.500 ettari di terreno agricolo allagati, 1.800 imprese ferme, danni per centinaia di milioni in zone, tra l'altro, già colpite dal terremoto. È una cosa che sta passando forse un po' troppo sotto silenzio, e quindi noi rimaniamo e continuiamo a parlarne. Erio Luigi Munari, presidente di Confartigianato Imprese Modena e Reggio Emilia, buongiorno. Buongiorno a lei. Come... e buongiorno ai suoi radioascoltatori. Come vanno le cose? Diciamo che passando i giorni, le ore, i giorni, da che non piove stanno migliorando, migliorando dal punto di vista delle esondazioni in cui la falla è stata fermata grazie ai lavori di pronto intervento e a tutti quelli che hanno operato sul territorio, alla protezione civile e ai comuni e soprattutto alle amministrazioni che si sono date da fare da subito. Il problema che molto probabilmente io pongo è sul fatto che molto probabilmente tutto questo personalmente non doveva accadere. Cioè il concetto, come avrà sentito, di dare responsabilità a quei poveri animaletti che molto probabilmente hanno la loro esistenza in un ambiente molto probabilmente preposto e quant'altro. Ah, però spieghiamolo Munari, c'è qualcuno che accusa le nutrie perché dicono scavano gli argini e quindi il secchia è esondato perché ci sono le nutrie. Ma io in rappresentanza, mi credo, di tante imprese che comunque operano sul territorio, mi rifiuto di cominciare a ragionare sull'impallo delle responsabilità. Quali responsabilità sono ben precise e non possono essere certamente degli animaletti che vivono la loro esistenza lungo l'argine del fiume Secchia. Oltretutto l'argine del fiume Secchia. Di chi sono, quindi di chi sono le responsabilità, Munari? Ma sono di chi deve controllare il territorio, sono molto probabilmente, ci sentiamo dire che mancano le risorse, ma allora signore, se mancano le risorse per controllare il territorio e questa incuria provoca i danni alle imprese, in primis ai cittadini, io dico che poi alla fine chi paga? Cioè sostanzialmente chi dà un supporto, chi dà la possibilità a queste 1800 imprese coinvolte, a questi 75 chilometri allagati, che nel comprensorio parliamo di 5060 imprese, parliamo in questo caso di 5000 addetti che oggi sono fuori dalle aziende. Parliamo di un'economia che è stata purtroppo due anni e mezzo fa, colpita da un sisma. E il sisma, posso immaginare che fosse un'emergenza imprevista. Però qua siamo di fronte, molto probabilmente, a delle incurie che qualche responsabilità qualcuno la deve avere. Qualcuno non la deve avere. Munari, un po' di cronaca. Ci dice in che situazione sono le imprese a voi associate, insomma almeno una parte delle imprese a voi associate, se avete già fatto una stima dei danni? Allora, la stima dei danni è in corso e questo non è possibile fare, però le posso garantire che abbiamo un territorio del 16% del settore agricolo, del 18% del manifatturiero, di un 22% dell'edile, di un 23% di commercio e di un ulteriore 20% sui servizi. Un'area densamente popolata di imprese, come abbiamo già avuto a dire con l'evento del sisma. Di conseguenza stiamo parlando di un'ulteriore disgrazia che è accaduta su delle imprese, su degli imprenditori che dopo 5 anni di crisi dal punto di vista di economia generale hanno subito il terremoto e oggi queste imprese in particolare stanno subendo un'esondazione. Ci saranno imprese, Munari, per essere brutali, ci saranno imprese costrette a chiudere definitivamente, secondo lei, dopo tutto questo? Allora, sicuramente in base alla risposta che danno le istituzioni, alla risposta che danno il contesto del credito, che oggi è difficilissimo averle, in base a tutti gli strumenti che anche l'associazione metterà in campo per supportare queste imprese, sicuramente ci saranno delle chiusure. Ma soprattutto quello che io tengo a precisare, ci saranno delle chiusure perché gli imprenditori dopo tutto questo, se non hanno una risposta concreta e focalizzata a dare respiro anche fiscale a un'area che è stata duramente colpita già da 2 anni in più questa esondazione, io dico che qualsiasi governo di fronte a queste catastrofi non può esimersi da non dare Munari, brevemente, cosa volete? Una sospensione delle imposte? Sì, noi chiediamo la sospensione, l'avevamo già chiesta per quello che riguarda il terremoto, ma in questo caso almeno 5 anni di esenzione di imposta per far sì che queste persone riprendano fiducia in un'economia e soprattutto in un sistema paese che purtroppo vedo che li sta abbandonando, e questo non è giusto da parte di qualsiasi governo. Questa impresa è andata tanto per 60 anni e vorrebbero continuare a lavorare sul territorio. 5 anni di sospensione delle almeno tasse. 5 anni di sospensione, delle tasse. Grazie a Luigi Erio Munari per essere stato con noi, presidente di Confartigianato Imprese Modena e Reggio Emilia. In bocca al lupo anche per il lavoro che dovrete fare con le vostre aziende. Una pausa, poi la borsa. Grillo torna ad attaccare Renzi, dice una legge elettorale fatta per tagliarci fuori. Il presidente della Commissione Affari Costituzionali, intervenuto ad Effetto Giorno, dice che non è così e aggiunge: il testo, come tutti i testi parlamentari, non è blindato. Il Papa dice che Internet è un dono di Dio perché può favorire l'incontro e la solidarietà. Non abbiate timore di farvi cittadini digitali, aggiunge il pontefice. Silvio Berlusconi e i suoi avvocati sono indagati dalla Procura di Milano. L'ipotesi è corruzione di testimoni nella vicenda Ruby. Sotto inchiesta complessivamente 45 persone. Ci sono anche le cosiddette olgettine. In parte nel silenzio tutta un'area del modenese allagata dalla piena e dall'esondazione del Secchia. Lo avete sentito poco fa, il presidente della Confartigianato locale ci dice: vogliamo 5 anni di sospensione delle imposte. È il momento della borsa. Borse in diretta. Borsa positiva oggi, più 0,33% il FTSE MIB, più 0,28% il FTSE All Share, in calo il resto d'Europa, anche se non fortissimo. Parigi cede lo 0,02%, Francoforte lo 0,16%, Londra lo 0,26%. Isabella Tasso, Radio Cori, il Sole 24 Ore, ciao e buongiorno anche oggi. Buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. Allora, dacci un quadro di giornata, aiutaci a capire cosa sta succedendo. Sì, gli indici europei sono leggermente deboli, faticano a trovare una direzione. Milano va meglio degli altri listini, ma è un rialzo tutto dovuto a un drappello di titoli industriali, in particolare Tenaris che fa più 4% e Fiat che fa più 3,9%. Per Fiat da inizio anno il rialzo ormai del 30% dopo la salita al 100% del capitale di Chrysler. Gli operatori si concentrano ora sui risultati di bilancio che saranno approvati il 29 di gennaio. Le Tenaris invece beneficiano delle promozioni decise dagli analisti di Mediobanca ed Equita che prevedono un 2014 in decisa crescita. Settore bancario mi sembra senza una particolare direzione oggi, perché abbiamo Intesa San Paolo che sale dello 0,15, UbiBanca giù dello 0,09, insomma più o meno oscillano intorno alla parità, Unicredit lievemente negativa dello 0,77. Sì, è poco mosso, ci sono un po' di realizzi anche sul settore del lusso. Vanno bene invece gli energetici, Eni fa più 0,6 e nel più 0,8 Saipem più 1,6%, bene anche Telecom più 1%, Finmeccanica più 2%. Grazie anche per oggi Isabella, buona giornata. Buona giornata. Ed eccoci di nuovo, un paio di precisazioni. Vedo che arrivano molti sms dagli ascoltatori a proposito della questione delle nutrie citata da Erio Luigi Munari, presidente della Confartigianato in Modena, Reggio Emilia, che ci diceva, insomma, è inutile dar la colpa a questi animaletti perché si sono rotti gli argini del Serchia. Guardate, quando parlava di altre responsabilità credo che intendesse il fatto che non c'è controllo del territorio nemmeno di quanto le nutrie scavano gli argini. Tema interessante, magari ci torneremo. Adesso parliamo del nostro viaggio verso la giornata di domani, il Black Friday della finanza locale. Oggi andiamo a Napoli. Napoli, centro di assistenza fiscale della CISL di via Medina. Qui le stanze sono invase da ondate di contribuenti, tutti disorientati. Devono pagare la TARES, la tassa sui rifiuti e la mini IMU. Il sito del Comune di Napoli fornisce un elenco dettagliato di tutte le categorie coinvolte dal saldo IMU e sono diversi in città i CAF dove poter andare e saldare. Ma i soldi da pagare sono di più e lo stress anche. Purtroppo sì. La nuova tassa sulla piccola IMU, aumento del 15%, pioggia che ce n'è, ci siamo bagnati per arrivare qua, terremoto a Napoli, di più non se ne può. L'anno scorso pagava 200 euro, quest'anno 260 euro e in più anche sulla prima casa questa mini IMU, ma non è una mini IMU, è una vera e propria IMU. Lei da quanto tempo sta aspettando? Sì, sono due ore che sto in fila e devo pagare 250 euro rispetto ai 170 dell'anno scorso. A Napoli sono 100.000 i proprietari delle abitazioni di alto valore che dovranno versare mediamente 125 euro contro i 68 per le abitazioni economiche. La difficoltà più grande è quella però di illustrare ai contribuenti i criteri utilizzati per determinare l'importo totale. È stato difficile calcolare? Per me sì, che sono incompetente, però pure il mio fiscalista e commercialista ha trovato difficoltà. Carmelo Prestisimone, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli. Paolo Lucchi, sindaco di Cesena, benvenuto. Grazie, buongiorno. Allora, voi in realtà la mini IMU non ce l'avete perché non avete fatto la maggiorazione l'anno scorso, e però il caos fiscale è fortissimo, insomma, non riuscite a chiudere il bilancio preventivo 2014. Sì, certo, i cesenati in realtà risparmiano una fila in questi giorni, ma purtroppo dovranno subire le conseguenze negative di un bilancio che non riusciremo ad approvare come sempre nelle prossime settimane. A dire il vero, noi abbiamo una tradizione che ci ha sempre portato ad approvarlo prima della fine dell'anno. Quest'anno presumo che ci si arriverà non prima di giugno. Non prima di giugno. In realtà, come sa, molti suoi colleghi finiscono per approvare il bilancio preventivo, diciamo, dell'anno in corso alla fine dell'anno. Insomma, quindi già siete piuttosto virtuosi così, no? Beh, noi siamo abituati a fare in un altro modo, anche perché il bilancio è l'atto più importante di indirizzo delle politiche cittadine. Insomma, piuttosto che lavorare in dodicesimi, come altrimenti c'è imposto, è bene riuscire a fare quel che i cittadini si aspettano sin dalla prima parte dell'anno. Questo per quanto riguarda quello. Ma questo perché? Perché di fatto siete nella confusione più totale, cioè non riuscite a capire che cosa si deve pagare, quali tasse sono, cioè avete gli uffici intasati. Beh, ci sono in realtà due problemi. Da un lato non sappiamo praticamente nulla dei nuovi regolamenti comunali sulla nuova IUC, che è composta dalla Tari, dalla Tasi e dall'IMU. E dall'altro lato le cose che leggiamo sui giornali, in particolare su Sole 24 Ore, per restare a casa sua, ci mettono nelle condizioni di essere particolarmente preoccupati dei conti. A noi mancheranno sul bilancio corrente per il prossimo anno, per quest'anno, stando ai conti attuali, circa 10 milioni su un bilancio corrente che è di circa 80 milioni. Quindi in realtà saremo in difficoltà clamorosa a garantire i servizi che sino ad ora abbiamo garantito ai cittadini. Grazie Paolo Lucchi per essere stato con noi, sindaco di Cesena. Buona giornata. Grazie a lei, buona giornata. Allora, parliamo adesso invece di un caso positivo, il caso di Whirlpool, che ha deciso di chiudere uno stabilimento in Svezia per trasferire la produzione a Varese. Vi raccontiamo questa storia e ci sono anche altri numeri interessanti sugli investimenti esteri. La speranza per gli investimenti esteri in Italia passa da un forno a microonde. Mentre molte aziende si spostano dall'Italia all'estero, Whirlpool ha stupito tutti con una mossa controcorrente, annunciando la chiusura di una fabbrica in Svezia per trasferire la produzione di microonde ad incasso nel Varesotto. È ancora troppo presto per parlare di nuove assunzioni, non è invece affatto prematuro sperare in un riassorbimento dei 450 lavoratori in mobilità da giugno 2013 dello stabilimento a nord di Trento. L'operazione a livello simbolico poi fa sperare in qualcosa di più anche per il paese, che secondo i dati di Confindustria gode di un triste primato. Tra le maggiori nazioni industrializzate d'Europa, l'Italia è quella che attrae minori capitali produttivi da oltreconfine. Se si considerano i flussi netti di investimenti diretti esteri, cioè quelli risultanti dalla differenza fra investimenti e disinvestimenti, il nostro paese raccoglie ogni anno circa 22 miliardi di euro di capitali, contro i 37 della Spagna, i 43 della Germania, i 61 della Francia e i 116 della Gran Bretagna. Tirando le somme, gli investimenti stranieri netti annui in Italia sono poco superiori all'1% del PIL. Eppure, a giudicare dai numeri, una maggiore presenza estera nella penisola farebbe molto bene all'economia nazionale. Le aziende straniere infatti in Italia sono soltanto lo 0,3% del totale, ma danno lavoro al 7% degli occupati. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Viabilità. È il momento di Mario Platero e di America 24. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. How much do you have left now? I think 5-10 minutes. Oh no, it's not. Can you just Beh, avete sentito uno scambio piuttosto acceso, lo avrete capito dai toni della conversazione, fra due personaggi, direi molto importanti, il segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon e il ministro degli esteri siriano Al-Mu'allem alla conferenza di Ginevra per la transizione in Siria, per la stabilità, per la pace in Siria. Questa tensione è il simbolo, direi, di una conferenza che è partita male fin da domenica. In questo scambio che cosa succede? Succede che a un certo punto Ban Ki-moon interrompe il ministro degli esteri siriano e gli dice ma lei quanto ne ha ancora da parlare? Perché qui si sta facendo un po' lunga. E il ministro degli esteri siriano dice ma 5-10 minuti. E subito il segretario generale dice no, è troppo. Guardi, io potrà farlo in un'altra occasione, ma qui si sta parlando troppo. A quel punto il ministro risponde qui sta parlando il governo della Siria, noi siamo la parte in causa principale, dobbiamo avere il diritto di parlare. Ecco, è raro che si vedano degli scontri di questo genere in conferenze internazionali di questo genere, che sono molto ben organizzate, coreografate, con tempi precisi. E del resto, come vi dicevo, questa conferenza è partita male fin da sabato, domenica, quando qui a New York, proprio alle Nazioni Unite, c'è stato forte imbarazzo, perché Ban Ki-moon aveva prima invitato l'Iran a far parte di un gruppo di paesi che partecipava alla conferenza e poi ha dovuto disinvitarlo. There were 30 countries enlisted in the list of invitations up to 2 days ago. Ecco, qui sentiamo di nuovo una voce siriana, l'ambasciatore siriano alle Nazioni Unite, Bashar Jaafari, il quale dice fino a 2 giorni fa c'erano 30 paesi invitati a questo incontro, poi gli organizzatori hanno deciso di invitarne altri 10, che sembrano essere stati selezionati più per la loro opposizione al regime siriano che per la loro neutralità. Invece, dice, l'Iran è stato appositamente escluso da questi negoziati. Ecco, è abbastanza misterioso cercare di sbrogliare la matassa, di capire che cosa è successo, come mai l'Iran è stato prima invitato e poi disinvitato. Di certo, da conversazioni riservate che ho avuto con alti funzionari delle Nazioni Unite, con dei diplomatici alle Nazioni Unite, le pressioni principali per invitare l'Iran venivano da Mosca, venivano dal governo russo, che è un forte sostenitore, un forte alleato del governo di Bashar Assad. Sembra che in un primo momento anche gli Stati Uniti potessero essere aperti a questa partecipazione iraniana, poi si è capito che forse era prematuro, ma non solo si è capito che era prematuro da parte americana, ma anche da parte iraniana. Pare che ci siano stati a Teheran degli scontri interni ai vertici governativi, tanto è vero che la dichiarazione finale poi di non partecipazione non è venuta dal gabinetto di Rouhani, il presidente iraniano, ma dal gabinetto di Khomeini, il capo supremo a Teheran. Quindi questa conferenza, diciamo, molto importante, molto difficile, non è partita nel modo migliore, non è partita nel modo migliore a New York, non è partita nel modo migliore ieri a Teheran, continuerà a questo punto nei prossimi giorni, ci sono vari interventi. L'obiettivo centrale qual è? È quello di far sì che tutte le parti in gioco, e quindi i ribelli, le diverse forze di resistenza, il governo siriano, possano dialogare fra loro e identificare un percorso, con una importante prerogativa americana. No one should think for a moment that in the future of Syria there can be a place for a man who has turned on his own people. Il segretario di Stato, l'avete sentito, il segretario di Stato John Kerry, anche lui a questa conferenza di Ginevra, Ginevra 2, e ha detto: lasciatemi ripetere che nel futuro della Siria non ci può essere spazio per un uomo che ha massacrato la sua stessa gente. Non si può salvare la Siria se Bashar al-Assad resta al potere. Ecco, direi che l'America ha ribadito la sua linea di sempre, quella cioè che in Siria ci vuole un cambiamento di regime. Qual è la strategia americana? È quella di cercare un compromesso, di far sì che qualcuno vicino al regime possa in qualche modo restare al potere in modo da garantire una transizione morbida. Nel frattempo si crea un governo di transizione per poter immaginare delle elezioni da qui a 2 o 3 anni. E questa soluzione è chiamata in America, ma ormai anche a Mosca, la Yemeniski Solution, cioè una soluzione simile a quella che è stata adottata nello Yemen e che in qualche modo poi ha funzionato. Qual è il problema? Che nel frattempo Bashar Assad, che molti pensavano che avrebbe così con signorilità rinunciato a ripresentarsi alle prossime elezioni, che saranno quest'anno, saranno nel 2014, scade nel 2014 il suo secondo mandato, sono 14 anni che Bashar Assad guida la Siria, ecco, si pensava una transizione morbida, si dice, così dicono fonti stampa, che il presidente siriano abbia accumulato, ammassato una fortuna pari a 1,5 miliardi di dollari depositati in conti esteri, dunque si poteva immaginare che potesse decidere di farsi da parte e consentire al paese di andare avanti in una forma di compromesso. Invece Assad ha detto no, io mi ripresenterò anche alle prossime elezioni, un ennesimo elemento di tensione in un paese che è spaccato al suo interno, che ha contato decine di migliaia di vittime, si calcola che ci siano stati circa 80.000 morti già nella guerra civile, un paese che ha visto il suo governo usare le armi chimiche contro la sua popolazione, un paese che ha visto un esodo biblico, perché soltanto in Giordania, pensate, si sono rifugiati circa 500.000 di siriani, la stessa Giordania sta soffrendo enormemente da questa situazione, lo stesso con numeri leggermente più contenuti ma sempre altissimi, centinaia di migliaia di persone, sta succedendo, è successo in Turchia, dunque questa questione siriana in qualche modo va risolta. L'occasione è oggi, domani, in questi giorni a Ginevra, al Ginevra 2, le tensioni di cui vi ho raccontato fanno parte del copione, ma l'importante è che si arrivi a una soluzione e devo dire quella più semplice, quella migliore, mi sembra la soluzione che prevede un'uscita dalla scena politica di Bashar Assad, non soltanto nel suo interesse, perché sappiamo poi come finiscono questi dittatori, ma certamente nell'interesse del futuro della Siria e della stabilità dell'intero scacchiere medio orientale. Non dimentichiamo, la Siria influenza poi il Libano, Hezbollah e un corridoio di passaggio di armi iraniane dirette verso le forze irregolari di Hezbollah, e un corridoio, quello siriano, che se diventa stabile potrà anche favorire il processo di pace fra israeliani e palestinesi. Sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Domenica notte ci saranno i Grammy Awards, i premi più importanti per la musica americana. Uno dei favoriti è Macklemore, nominato per canzone, disco dell'anno e miglior nuovo artista. Ve lo facciamo scoprire, di Macklemore, Can't Hold Us. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, first shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, y'all can't copy yet. Bad moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Chrome music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yeah, I'm on. Let that stage light Plinko and shine on down. Got that Bob Barker suit game and Plinko in my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. Ed è tutto anche per Effetto Giorno. Ringraziamento a Gianmarco Ferronato in regia, a Isotta in assistenza e in redazione, a tutta la redazione di Radio 24. Un grazie a tutti voi per l'ascolto. La nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno, se vogliamo parlare anche di nutrie, visto che è il tema del giorno. Ci risentiamo domani alle 13 con la trasmissione e invece tra un attimo con il giornale radio.